Componimento 124 del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Amor, fortuna e la mia mente schiva di quel che vede nel passato volta, m'affliggon sì ch'io porto alcuna volta invidia a quei che son su l'altra riva. Amor mi strugge il cor, fortuna il priva d'ogni conforto, onde la mente stolta s'adira e piange, e così in pena molta sempre conven che combattendo viva. Né spero i dolci dì tornino indietro, ma pur di male in peggio quel ch'avanza. E di mio corso ho già passato il mezzo. Lasso, non di diamante, ma d'un vetro, veggio di man cadermi ogni speranza, e tutti i miei pensier romper nel mezzo. Fine del componimento.